Benvenuti nella stanza del nonno. Come state? La questione del Natale, insomma, appartiene a ognuno di noi in maniera anche differente dal punto di vista musicale. È più o meno un'occasione per stare insieme, insomma, una scusa per comunque così scambiarci non dei regali, ma dei suoni che magari appartengono a ognuno di noi, sono cose che sono state ascoltate durante l'infanzia, sono cose che magari si mettono nel momento in cui si fa l'albero e quindi c'è una musica costruita da qualcuno, magari un amico, un fratello, una persona cara, un figlio, chiunque, una cassetta che si mette magari per fare l'albero, e sulla cassetta c'è scritto appunto musica per fare l'albero. Poi si dà il caso che magari tra le persone che ci sono a cantare ci trovi Mahalia Jackson, ci trovi Louis Armstrong, ci trovi, che ne so, dei cori importantissimi, spesso in Germania. Poi la musica di questo periodo chiaramente parte con una chiave, parte con un mood, ma poi nulla toglie che uno si possa allargare nelle otto direzioni. Sono otto? Uno, due, tre, quattro. Perché sono otto? Ah, perché ci sono anche quelli di mezzo. Vabbè, sì, altri 20, diciamo così. Buster Williams. Ben ritrovato, Buster Williams, ci rifà da sigla dopo qualche tempo. Edit al microfono con voi, Eric di Troia, non l'ho mai ancora detto. Oggi tenterò di mettermi un po' da parte, un po' così. Non direbbe dietro il microfono, già ci sei. Diciamo, non vorrei intervenire spesso e troppo, perché comunque poi i brani che ho scelto sono alcuni anche abbastanza lunghi, quindi c'è da concentrarsi. Però con che cosa voglio cominciare? Io direi di cominciare con uno dei 45 giri che hanno così segnato la mia vita di bambino che mette i dischi nel momento in cui c'è il Natale, no? Cioè, allora, che bambino, che disco metti? Adesso ti faccio vedere. Prendo il disco, con 45 giri, lo metto sul piatto automatico, lo faccio girare. Il mio è molto graffiato, questo è molto ripulito, quindi però si tratta di questo. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one more someone's sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, rocking through the snow on a sudden open sleigh. So that's hot today, rolling all the way. Bells and angels swing, making spirit ride. What fun is the rock and roll that's playing song at night. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one or someone's sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Sarah's hot today, rolling all American spirit right. What fun is the rock and rollers playing song tonight? Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to run and one more song once play. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to run and one more song once play. Io ero molto piccolo, avevo quasi 3 anni e già mettevo dei dischi, no? No, non vi dico quello che mi sembravano le parole. Invece, girando il disco, il 45 giri, era completo, perché ce n'era un'altra di canzone ed era esattamente questa. Il signore che canta è Peppino Di Capri, lo avete riconosciuto, che con i suoi Rockers in quel periodo fece da supporter ai Beatles. Quel lieve tuo candor, neve discende lieto nel mio cuore, nella notte bianca. Il cuore esulta d'amore, è Natale ancora, e viene giù dal cielo lento un dolce canto ammaliato che mi dice spera anche tu, è Natale, non soffrire più. Un 45 giri della Cherish, sul quale si può ancora leggere la data in cui è stato stampato. Credo che fosse 1962, se non vado errato. Un ottimo vinile, molto bello, molto ben curato, anche molto ben stampato. Non pensate che questa questione del Natale finisca qui. No, no, no, no. Perché c'è un signore che si chiama Oscar Peterson, che sta cantando la stessa canzone. Questa è la stanza del nonno ed è la musica dedicata al nonno, che in questo periodo ama osservare le lucine dell'albero di Natale e sentire della musica che in qualche modo accarezza questo brillare di queste lucine. potevate cantare, eh? Non era assolutamente vietato. Questa è la stanza del nonno. Io sono Edith e questa è una puntata dedicata alla musica che si suona attorno all'albero di Natale o al presepe o comunque a un'idea, un rallentamento, una riflessione, una contemplazione laddove è possibile, tra neve e lucine. Invece voi state a fare cose completamente diverse, corse nei supermercati, lo so. Ma noi ci proviamo. Proviamo a farvi fare uno sforzo. A questo aspetta, c'ho le parole. Ah, sì. Posso cantare? Posso cantarla un po'? Un pezzettino. Vabbè, ci provo, Andiamo un po'. Have yourself a merry little Christmas at the home. Ma com'è entrato il chitarrista, Oscar? Oscar è al piano, questo signore, anche se suona una piccola scemenza, ha un tocco omicidiale. Oscar Peterson. Non erro, frequentava anche la casa di un artista che si chiama Jan Kral. No, non ancora? Aspetta. Oscar ne voleva dire ancora un'altra. E questa è Christmas Waltz. Bella. Che potete anche ballare se volete. Quando la riascoltate. Thank you. Oscar Peterson con l'orchestra di Rick Wilkins e la chitarra che abbiamo sentito prima anche in altri brani di Lorne Lofke. Alla batteria c'è Jerry Fuller. Ecco il signore con la chitarra. Questo Lorne Lofke. Ah, non ho detto che c'è il contrabbasso. David Young. Registrato tra giugno e luglio nel 1995, quindi per Oscar Peterson piuttosto recente, direi, no? Che pianista questo ragazzo che sa suonare. Venne molte volte in Italia a suonare in trio, quando il trio ancora era una cosa nuovissima. C'è una famosa registrazione del trio di Oscar Peterson, piano, batteria e contrabbasso. Lo trovate su YouTube, eh? Andate a curiosare. Chiunque non sapesse che siano, andate pure a curiosare. Sono sicuro che rimarrete molto soddisfatti del sound. E basta, perché le immagini che c'entrano, no? Ma anche la musica bisogna sempre visualizzarla. Lasciami un po' di fantasia. Possono sciogliersi le coppie. Christmas Waltz, grazie al pianista, il signor Oscar Peterson. From Coney Island to the Sunset Strip, somebody's gonna make a happy trip tonight while the moon is bright. He's gonna have a bag of crazy toys to give the cronies of the girls and boys. So day Santa comes on big. You come a calling when the snow's the most, when all your cats are sleeping warm as toast, and you gonna flip when old Saint Nick lays a lick on a peppermint stick. You come a flying from a higher place, fill the stocking by the fireplace, so you have a youth that's good. Cool. Allora, lo dico ai più giovani, dovete sapere che questo signore compariva con i suoi occhioni e le sue guancione gonfie mentre suonava la tromba. All'inizio sembrava che ce l'avesse con noi, poi cominciava a cantare. Eccolo qua. La sua voce. Io colgo l'occasione per salutare e ringraziare Patrizio Sigona, che sarà con noi proprio i giorni di Natale, che ha preparato un programmone e che naturalmente in questo momento è in ascolto. Anche Riccardo è in ascolto. Non ve l'aspettavate, eh? Louis Armstrong, Cool You. Ecco signori, benvenuti. Questa è proprio la musica per iniziare a fare l'albero. Tutto pronto? La scatolina con le palline. Ci siamo? Bene, buon lavoro. Are you listening in the lane? Snow is glistening. A beautiful sight. We are happy tonight. Walking in the winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in the winter wonderland. In no matter we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made, walking in the winter wonderland. Cosa più importante, è in ascolto una delle persone più importanti della radio, colui che manda in onda tutta la musica e che ci lavora durante la nottata. Quando ha finito il suo lavoro ne comincia un altro. Credo che si sia addirittura commosso. Ma ragazzi, è così, va bene, questa è la musica con la quale stringersi l'un con l'altro. È suonata appositamente, infatti è questo che stiamo cercando di capire. Stiamo cercando di sorvolare sulle musiche di alcuni grandi musicisti per capire come hanno costruito la questione del Natale. Sentiamo White Christmas. Bella. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your E le festività della radio si aggiungono, perché ormai siamo diventati tanti e abbiamo cominciato anche a volerci tutti molto bene, e quindi pare che stia preparando una the best anche del nostro principe regale di Samarcanda, che ci regala della musica classica, e oggi io gli rubo un po' qualche musicista per ascoltarlo con noi. Questo è Louis Armstrong, White Christmas. Christmas is me Anche il gospel. Silent night. Si esprime, sentite com'è. Holy night. All is calm. And a virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly sleep. Silent night. Oh, Savior is born. Mm-hmm. say fire is born. Una straordinaria Mrs. Mahalia Jackson da questa sua esecuzione bellissima. Lasciamo un attimo il gruppo Soul, lasciamo le messe Soul che sono molto attraenti musicalmente, no? Come sentite, qui è cominciato un altro brano. E vi ricordate che nei Blues Brothers abbiamo assolutamente assistito a una messa, a una messa blues. E comunque la voce di Mahalia Jackson. Down in my Volevo lasciarla un po', ma invece ascoltiamo questo brano che si chiama appunto God Knows the Reason Why. Mahalia Jackson e la messa gospel, la messa soul, blues, e quindi crea una grande attrattiva anche a chi non crede, a chi non fa parte di quel tipo di credenza o di religione, ma musicalmente non può che essere attratto, c'è poco da fare. Il coro di Dresda, sorvolando nuvole e venti, ci siamo trovati in una grande sala dove un violoncello solo sta eseguendo la suite numero 1 in sol maggiore di Johann Sebastian Bach. Scritte per la contemplazione anche religiosa, ce n'è una in particolare nella quale mi sono imbattuto non molti anni fa, scritta da un certo Heinrich Ignaz Franz von Bieber, che si intitola Il mistero del rosario e per esempio la sonata numero uno di questa Mystery Rosary, poi in inglese viene tradotta in varie forme e anche come Rosenkranz, dipende, e vi vorrei far ascoltare questa non so come viene chiamata, ma ascoltiamola. questo tipo di musica ognuno la mette quando e dove gli pare. In questo caso potrebbe essere utilizzata per contemplare l'albero di Natale, il presepe, stando comodamente seduti sulla propria poltrona in penombra con qualcosa da sorseggiare e finalmente dedicandoci ai nostri più intimi pensieri e non a quelli che le televisioni, le radio ci impongono. E non ce n'è uno che ci interessa veramente, se ci fate caso. Invece stare con noi stessi, pensare alle cose della vita, anche le più banali, può essere soltanto un piacere. E diciamo che questa musica potrebbe aiutare, no? Come dice il nostro Mauro Tiberi. E, no, ci sono quei concetti in cui la musica sciamanica, Mauretto, dove stai? Stai suonando da qualche parte? Un saluto anche a Mauro. Ma qui ci sarebbe da salutare tutti quanti, ricordarsi i nomi di tutti. In questo momento io sinceramente non me li ricordo tutti. Ma magari se qualcuno me li elenca, io poi naturalmente li sciorini pure. Tu stai parlando sulla musica classica, sai che è un sacrilegio? Sì, lo so. E allora perché lo fai? Proprio perché stiamo parlando di cose sacre e quindi un sacrilegio ci vuole. Vediamo se vi ricordate a cosa appartiene la musica che parte ora. Film meraviglioso, Tous les matins du monde, sulla storia di Jean-Baptiste Lully e Martin Marais. E la musica di questi musicisti è piuttosto particolare. Ma anche l'esecutore, Jordi Savall. E questa è musica attorno all'albero di Natale. Thank you. oggi non manco a cara pace, né giunga profanare estro rapace. Su musiche di Georg Friedrich Händel, la voce di Andreas Schöll. Thank you. Peterson, dalla stanza del nonno. God rest, yeah, Mary, gentlemen. Oscar Peterson, e adesso qualcosa che avete ascoltato tantissime volte, ma non così. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you gonna rise up singing. You gonna hide your way home, take to the sky. Nothing will harm you. We're dead in Mammy. They'll be standing by. Sometime I feel like a mother. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel. Just a long way from my home, Lord. Just a long way. Voce meravigliosa di Mahalia Jackson. Che ci permette di scoprire come questa canzone sia dentro l'anima, dentro il cuore. Through hope, and the living is easy. Fish are jumping home, and the cotton is high. Oh, your daddy ain't rich, and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you gonna rise up singing, you're gonna hide your way home to the sky. But till then, morning, nothing can dead in mommy, they'll be standing by. Mahalia Jackson in un brano che avete ascoltato milioni di volte, Summertime. E adesso, forse, se avete delle cuffie, io vi consiglio di metterle. Siete delle cuffie molto particolari o un impianto stereofonico meraviglioso, perché è il caso di, così, di mettersi ad ascoltare tutti i dettagli che scaturiranno da questa esecuzione. È un trio di musicisti, non so quale aggettivo superlativo, non me ne viene uno. Sì, suonano della musica in tre, si guardano, si osservano, ma anche durante i concerti, come durante l'ascolto che voi state per iniziare, succederà qualche cosa se siete sensibili in un certo modo. È un modo completamente diverso di ascoltare, di fruire la musica, è un modo completamente diverso di immergervi, sì, e veramente volare altrove. Il trio è Keith Jarrett, Gary Peacock e Jack DeJohnette, rispettivamente al piano, al contrabbasso e alla batteria. Il brano si chiama Moon and Sand. se siete riusciti a chiudere gli occhi e a seguire tutti i passaggi di ogni musicista. Questi 8 minuti, quasi 9, sono passati velocissimamente. Sentite che cosa fa Jack alla batteria. Non vi posso dire chi suonava gli altri strumenti, ma vi posso dire certamente chi ha suonato la tromba, e cioè il signor Chet Baker. child. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Look at him. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna know who's been naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Do you hear me? Well, listen. He knows if you are sleeping. Yeah, he knows if you're awake. And he knows if you've been good or bad. So you better be good for goodness sake. Hey, you better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming down. All right, look out. Here he comes. Questa è una musica che intorno all'albero di Natale. Da dove strilli? Dove stavi? No, sono uscito un attimo. Vabbè, ma non puoi uscire, non è che puoi lasciare le cose così. Cioè, stiamo ascoltando, siamo tutti intorno all'albero di Natale che hai creato oggi. Quindi, insomma, in qualche modo stavo sentendo un signore che somigliava, visto che c'è Ray Charles sotto, somigliava tanto a Frank Sinatra, ma non è Frank Sinatra, ma invece è un certo Tony Bennett, che canta appunto una canzone dedicata all'albero di Natale insieme all'orchestra di Count Basie. Quindi siamo sempre intorno. Christmas tree, Christmas tree, such pleasure do you bring me. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, such pleasure do you bring me. Every year this Christmas tree brings to us both joy and glee. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, such pleasure do you bring me. Commozione, si va a suonare brani sentiti e risentiti. Tony Bennett, ma avete mai sentito Ornella Vanoni cantare Stille Nacht? Sì, sì, proprio Ornella Vanoni, eh sì. Cioè, così dicono, eh. Ma magari noi sentiamo un'altra voce. Io sono Edith, sto quasi per concludere il programma. Volevo concluderlo in una maniera, insomma, più allegra, ma non riesco a trovare cose. Beh, forte. Alles schläft. much love in English now. Ornella Vanoni, Stille Nacht, un programma costruito attorno all'albero di Natale, nella stanza del nonno, per il nonno che è tornato a viverci e che in questo periodo ama guardare l'albero di Natale e le sue lucine e sentire della musica. Della musica bella. A me in questo periodo piace tantissimo sentire le big band, per esempio. Mi danno molta idea del ballo swing, no? A Parigi si va molto nelle haussette, nei caveau. E questa è un'orchestra celeberrima, è quella di Dizzy Gillespie, il brano è suo, Night in Tunisia. A capo di una vera big band. Thank you. Fly me to the moon, let me play. Ah, quanto mi piacciono le big band. Una volta facciamo un programma cercando di spiluccare fra i miei i dischi, quelli che si trovano nel web. In other words, dischi che non ho mai potuto comprare. Hold my hand. Benvenuto Frank, mancavi molto. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, straordinario Frank Sinatra, assolutamente straordinario, irripetibile, inimitabile. In tanti ci hanno provato anche dopo, ma stiamo cercando una musica per concludere, per salutarci. Abbiamo saputo da bellissimo programma del nostro Mauro Tiberi che un musicista, quello che suona qui le tabla, Zakir Hussain, non c'è più. E anch'io volevo fare un piccolo omaggio a questo grandioso musicista qui su un album che si chiama Making Music della ECM. E suona insieme ad Hari Prasad Chaurasia e John McLaughlin e Ian Garbarek. Zakir Hussain. E adesso un brano quasi per concludere. Non è proprio la conclusione, ma è Non so come dirvi, forse non c'entra niente col Natale. O forse sì, però è un brano che la prima volta che l'ho sentito da Rai Stereonotte e poi sul disco che mi sono comprato di Jan Garbarek mi ha molto commosso. C'è una storia dietro questo brano che però in questo momento non ricordo. Kroll viti tvevs is peralada devs da hepsi aksis ose chubi ose las gera tsame harava ose chubi ose las gera tsame harava. Svolgo de simrepsi, de bisev diana gedat, ohont kvatu habem sulci, rogorcia i gedat. Tu si smar ma vit se isha, si danzama depte. Daga shala ot selevata, lurgi ala kadem. Bacchtil dovet kvens kvelit, sikdils vegebebi. Robbe pevara daba gossadi, tasim gelit kvedeli. Rom tzachome basa ukunes, tkventana cebi kanari. Cera razdoro sar shubila, Gerarás de rosar a chupilar, Gerarás de rosar a chupilar, Tvaria se tzgada. The moon over Mtatsminda. Grazie per essere stati con noi. Una radio che sta diventando sempre più grande, sempre più bella. Ci sono tante splendide persone che sono arrivate a fare così, a scegliere la loro musica e a proporvela. Persone giuste da mettere insieme e costruire, no, qualche cosa di speciale. Ain't that a real good girl? E vabbè, ci salutiamo con Ella Fitzgerald. He was my loving baby, and I love him all. La grande Ella. Sì, va bene, mi piace salutarvi con Ella Fitzgerald. And I loved him all. Il brano poi si chiama Good Morning Blues. Quindi Spero che abbiate potuto godere questo programma nei luoghi giusti, ma se non ci foste riusciti, ricordate che ci sono i nostri podcast. E allora il podcast lo recuperate, anche se sono sicuro che riandrà in onda sicuramente in questi giorni, come molti altri dei nostri programmi. Anche noi ci prendiamo qualche piccola vacanza dallo studio di registrazione, ma qualcuno di noi, sono sicuro, che sentirà la mancanza del microfono e magari dopo un pomeriggio a mangiare vorrà sicuramente proporvi la sua musica. Enrico Di Troia vi ringrazia per essere stati con me, con noi, in tutto questo anno in cui questa avventura è cominciata. L'anno sta per volgere al fine e è probabile che ci riascolteremo prima della chiusura di questo anno. Io non vi faccio auguri particolari, perché poi se questo programma lo riascoltate in un altro momento sembrerebbe come, no, uno spostamento di tempi. Noi abbiamo soltanto riascoltato delle cose così per stare con noi stessi, in pace, tranquilli, a pensare, a vedere, a capire, no? A sapere se esiste della musica per poter pensare ai nostri casi e non a quelli di altri. E quindi Enrico Di Troia a questo punto cosa fa? Beh, a questo punto vi saluta e vi ringrazia per essere stati all'ascolto. Dice, ma questo l'hai fatto anche prima. E no, è che volevo mettere un altro brano per salutare. Grazie, grazie veramente. Ci sentiamo i prossimi giorni, ci risentiamo sui podcast. E quindi non mi rimane veramente che raccogliere i miei fogli. Se siete stati bene, tornate. La trovate anche sul DAB della vostra macchina se gironzolate per il Lazio o per la provincia. Ma se poi andate altrove e la perdete, non fate altro che collegare il vostro computer di bordo o il telefono, qualsiasi cosa collegata al web. Lì non solo ci potete sentire in diretta e di essere diffusi dai vostri impianti stereofonici dell'automobile, ma anche quelli di casa, ma anche quelli che stanno facendo un viaggio altrove, stanno passando il confine e vanno chissà dove. Quindi, siamo con voi dovunque ci pensate. Abbiamo un numero di telefono a cui potete chiaramente lasciare suggerimenti, auguri e qualsiasi altra cosa, ma vedo che amate di più ascoltare, anche perché poi digitare un numero di telefono mentre stai ascoltando il programma dal telefono stesso risulta un po' scomodo. In ogni caso, il nostro numero di telefono è il 3791 880 880. Facile, no? 3791 880 880. Di nuovo grazie, arrivederci, a risentirci.